Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti gli Elizabeth. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del CD Ruggine, come ad esempio il primo titolo. Questo era disinfettante. La vostra esperienza in studio di registrazione, quali le idee musicali che hanno poi realizzato, dato vita a questo vostro disco? Beh, le idee musicali principali erano appunto, abbiamo tentato di fare un disco ispirandoci ai nostri idoli. Quindi tentare di lavorare come lavorano loro, cioè i nostri idoli erano Paul Weller e gli U principalmente, oppure anche i Radiohead su alcune cose. E quindi in automatico l'idea era mettersi, abbiamo fatto un tot di provini, un tot di sala prova prima di andare a registrare. Che fa parte dell'esperienza in studio anche quella. Certo. Un disco si lavorare parte a lavorare già dall'inizio. No, infatti il disco secondo me si fa prima in sala prova che in studio di registrazione. Cioè in studio uno butta cioè vomita praticamente quello che ha fatto in sala prove. Però il arrangiamento e tutto deve essere già studiato, almeno soprattutto per l'idea che avevamo noi, cioè andare in studio e non fare un concept album della gran roba, ma andare in studio e suonare i pezzi, quindi tutti in diretta, tutti insieme, il più sincero possibile, con e senza scazzi, ecco. La prossima canzone per chi ci ascolta? Un mondo per me, che è il singolo. Ciao ragazzi, andiamo a cascare le chitarre. Studio ancora con gli Elizabeth, recensioni, quali le più interessanti e cosa dicono del vostro album? Per ora siete stati fortunati perché sono state tutte belle le recensioni, quindi bene per voi, siamo contenti. No, direi che c'è da citare secondo me quella, esatto, di Cool Mag, perché lui sì, mi ha commosso. Sì, anche a me. E praticamente questo raccontava di avere in casa una foto di lui e Paul Weller, e quando gli è arrivato il disco ci ha ringraziato per aver fatto un disco così. Bene, insomma, dai. Questo era stato molto carino. Poi vabbè, dopo sono uscite anche su Rockerilla, Musical News, hanno fatto tutte delle ottime recensioni. persino su Eva 3000 c'era una recensione, e io pensavo che fosse uno scandalo, invece parlavano del disco. Ci hanno beccato chissà dove invece. No, abbiamo avuto delle ottime recensioni per adesso, un po' dappertutto, altri giornali da citare. Anche il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, Liberal. Ma spazi che importanti anche in questi giornali che magari non si occupano di musica. No, infatti, poi... cioè comunque è interessante anche, cioè per mia madre aveva un senso, allora dopo tutto che io lavorassi di musica era credibile perché l'ha letto sul Sole 24 Ore, perciò insomma ci ha creduto. Se invece magari lo leggeva su MTV e su altre cose non lo accettava, ecco. Non che avessimo parlato di economia sul Sole 24 Vabbè, Ore, però l'importante è ogni tanto qualcosa di musica va bene anche esatto. Su questi giornali. Prossima track. Prossimo brano, La mia generazione. Noi torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con gli Elizabeth. Voi restate sempre su Radio RCS. Già mi svegli la mattina e già mi pressi per come vado fuori, avresti dovuto vedere com'ero messo ieri sera, e tanto se sto ancora in piedi, ma per quello che faccio è già qualcosa se riesco ancora a deluderti. Io non ho rispetto per le regole, immagina la voglia di ascoltarti ancora un po'. Frase. Io alla tua età. Senti, la mia era un'altra epoca. E se il lavoro che faccio non ti soddisfa ancora, beh, sono il problema della tua generazione. Questa è la mia generazione. Questa è la mia generazione. E va bene, va bene. Se taci, va bene. Io sono questo qua. Già mi svegli la mattina. Già mi svegli la mattina.